ascoltano. È una catastrofe se sbagli la cottura della pasta, se lasci troppo aperta la finestra. Sotto attacco mi difendo dalla tua stupenda anarchia. È una montagna nascosta il tuo dolore, che non sai come scalare ora.